piatto e ce l'ho fumo. L'ho caricato il prospetto a Manuele che c'era una perdita. Ha detto che non è in fretta, boh. Si viene caricato tu che è in fretta. Non ti preoccupare. Vero Manuele che va bene, Riuso, riuso adesso. Ragaba. Ecco Manuele, ho sistemato il microfono. Forse mi ascolti in radio. Eia, va benissimo, super 5. Eia, c'era un filo interrotto ogni tanto. Usciva, non usciva, per carità, adesso lo si sta matto. Come se non si faceva più un Natalino. Questo dai, è un frago, l'antenna della tasca buzzina come esco. Ah, vai figlia. Tu mi ha convinto io, Natalice, c'è una tua messa scapuzzina, ha detto, ma sei così? E tu vedi un pendolone cos'è? E a te si vuole mancare. La gara è stupendi. Ha detto, tu sei impossibile se c'è un antenna, attaccata la Iana e tu prendi lo stilo pure la Iana. Vai che c'è l'antenna fuori, vai, ho detto. Non le dire. E infatti, arriva troppo bene qua. E c'è una frusta nera, mi dico le caricate. E va benissimo. E io credo che andava bene o che arriva Emanuele. Qua arrivano 9:10 con quell'antenna. E qua arrivano con i bari. E qua non l'ha già mai dato, però questo non è neanche attendibile perché è digitale lo smitter. Sì, sicuramente gli arrivo basso perché sto usando l'antenna di gomma, capito? Cazzo al basso, non vai 30 al basso. E non faccio l'eccezione, sai. Cosa, Emanuele? Non c'ho tanta l'eccezione. Sì, certo, se l'avevo da sopra io, un'antenna mentre si deve, avevo fatto con lo scala a tutti. Ah, quella donna è buona lo stesso. Ma ti va bene, Emanuele, ti ascolto bene. C'è anche una bella radio, Il microfono quello lì, come quello che avevo dato a te. Non è uno di qui, lo sai, tutto smontato. Perché io non faccio la foto al tuo e lo metto a posto, perché siamo attaccati tutti i fili, capito Manuel? Lo so, che cazzo te l'avevo dato, non lo sapeva, ma poi se l'avevo dimontato. Ma l'ho smontato, l'ho venduto, l'ho amato tu, poi questo me l'aveva regalato di... me l'aveva regalato cosa, come si diceva, Francesco Sacramento, assieme a un Tolmar di quelli a 23 canali, dai. Di quelli quartati. Un attimo che mi chiamano al telefono. Ciao ragazzi, hai visto Natali? Io ne ho uno di quei microfoni. E io non capisco che microfono è, però, se tu non me lo dici. Ma ti ricordi quei microfoni del Tokai? Quindi, come quello del Tokai, la carcassa, però c'è la rotellina del lavoro, praticamente con la batteria da 1,5. Ho capito. E andano in vero, io ne aggiungo i nuovi, tutto dimontato. Però ci sono staccati tutti i rivivi, ci vorrebbe la scherma, ma io scherma non ne ho per rifarlo. È nuovo nuovo, che peccato, va a Napoli. Ho capito. Cazzo, io la più. Io la più, l'ho compresso proprio di un Doccai. Cazzo di sushi, era tutto originale, me l'hanno rubato dalla macchina, anche il baracchino. Nuovo nuovo, me l'aveva regalato Mario. Va via tutti i gommi, nuovi nuovi, lì manopoli con la gomma, erano, ma lo sanno, non te la vedo che sono Doccai. Perché quelli li usavano sulle barche, quei Doccai andavano sulle barche, capito? E il mio era metallizzato, era bello, cazzo, aveva la staffa cromata qua, e me ne hanno fatto dalla macchina, visto? Quelli battisti da bambini a Parigi. E c'aveva il ciccalino, quello. Cazzo, era per davvero il suo baracchino. E me ne hanno curato. Cazzo, aveva una radio, ma riamplificato un microfono. Io ce l'ho il toccaccio, quello 24 qua, no? Cazzo, non sarai tu, me ne hai curato, no? E allora, senta, ma per un ciccalino, lo mio. E chi se l'avviene tutti, il toccaccio, un ciccalino. Quello che c'avevo io era nuovo nuovo, mi aveva regalato Mario chi sono. Ne ho uno io, Natali, il Tokai già è bello, ma ne ho uno io, c'ho il Summer Camp io, il 23 canali, è poco un mese, tu devi vedere come è te. un bomboe. Sì, ce l'ho anch'io un ventilacanali così, di quelli antichi. Non lo sto usando, ma già ce l'ho. Allora io ho il 23 canali Sommer Camp e poi ho il Sommer Camp, no, il Tokai 6 canali, il 6 canali veicolare, non so se lo conosci tu, quello che c'è canali A, B, C, D. Sì, ce l'avevo anch'io quello lì, l'avevo bigliato da Goso, l'avevo bigliato su Tokai, da quello che c'è in via vicino a casa di Marco, dai. Eglia, eglia. Se lo vuoi te lo regalo uno, ma di una marea, quelli qui sono belli perché sono antichi, questi 23 canali non prendono colpi. Ehi, già lo so, ce l'ho uno io di qui. Non so, e chi se ce ne va? Io ce l'ho spento adesso, anche devo collegare l'antenna, ora non aggiungare. Uso questo, so di poltrona e va più che bene. Gavi, cara Gabe. Eia, c'ho anche l'attacco, il Tarnet per esempio è per quel 23 canali. Ma se tu lo vuoi modificare, non è cosa devi fare, i fili di sopra li porti sopra e quelli di sotto li porti sopra, sempre nella stessa posizione dove li saldi, e non sbagli, e va bene lì. Sì, lo so, non aggiungare una braccia, c'è la schiena che mi fa male, ogni tanto mi alzo dalla sedia perché non posso stare seduto. Ti capisco, perché sono dolori allucinanti, fate male, e ritorno il cambio di temperatura, capito, ti fa quel lavoro lì. Sì, lo so. È un casino, e vabbè, i dolori, quando veni, capito. E poi... Allassi Siridenni, so come interi di là. Ai dolori sono come sudi, chi ci piace a Siridenni? Eh beh, normale. E così. Dice a vedere. Che suga, stavo guardando la situazione. Cavagava. Oioia. Andiamo, andiamo. Ma la telematica c'è con l'alimentatore a 11 volt, su Natali. E per quello era bassa l'alimentazione. Perché vuole a 13,8. Ehi, vabbè, ma tu gli avevi lo strumento, c'è il Bunia, ma portalo a 13,8. Beh, avrai regolato dove 13,8, fissi, proprio bene, capito? Allora sai perché l'avevo ordinato, ma regolato a 11 o qualcosa? Perché io avevo quell'apparecchio tipo quello che c'è tu, e praticamente andava in protezione. In protezione? Lontano. E come si mai? Perché avevano toccato la protezione dell'alimentazione, che qualcuno di noi sa usarla. Ah, ho capito, il mio è, non gli ho toccato niente, va alla grande. Se ho capito anche io l'avevo fatto così, l'avevo escluso quel coso lì, perché quello c'è una protezione, se va oltre il solito va in blocco. Sì, ho capito, dal menù l'avranno toccato. E infatti sono dovuto entrare nel menù e tu già arrivo. Sono venuto in famiglia a dare protezione, dico, mo strano. Allora sono entrato nel menù e ho visto che c'era quello attivato, e glielo disattivato. Ma c'è delle funzioni sul menù, capito? Puoi fare quello che vuoi lì. Ehi, Arusoglu, faccio un burro manuale in italiano, dici. Allora, e sei a posto. E infatti. Ci vuole niente a farlo, va. Te lo regoli una volta solo e poi guarda che commenta. Questo è l'inglese, me lo devi tradurre. E te lo traduco, non c'è problema. E Marco, non lo dubbierai su questo apparecchio? Sì, uguale, però marcato Intec. È discreto, non va male. Naturalmente non è un K, ma è un baracchino un po' avanzato, tante funzioni. Ah, vanno bene, Marco Rivo, dirì. Sono delle belle radio invece. Io ce l'avevo, la verità, e andava bene. L'unico casino è che avevano toccato il menu, praticamente l'avevano messo con la protezione, ci gli dai più di 13, andava in protezione, anzi andava in protezione con 11 volt, 11,8 ti stampa per protezione, neanche 12 è. Quindi sono entrato sul menu e gliel'ho tolto. Aspetta, non ho sentito che c'era il telefono, un attimino. Fai, faccia tranquillo, guardi il danno che ha fatto. Addirittura quell'altro, quella ne dà 80 di watt, capito? E quale? Quello J-Force? No, quello lì, chi sono dati 80 di watt, capito? Sì, lo so, questo ne dà 30 solo, in banda laterale però. In AM ne dà, è normale, ne dà 12 mi sembra. Non l'ho manco controllato, perché questo è normale. Mi dà sui papi uiri a Bedu di Radu, la via di Radu Rugudu, la via. Lì c'è un trimel all'interno, se tu lo apri, mi pare che il 504, praticamente lo metti, è scritto PVR, e lo giri leggermente a destra, e con l'apparecchio dovrebbe dare sui 40 watt. Sì, ma è meglio lasciarlo così, o sai che si bruci, non si sa mai. Adesso questo sta uscendo. Chi come si fa? È una belva, Questo se è un vento va picchiato a 150 pure. No, io questo non lo tocco, dai. In banda laterale con 30 watt vanno bene. Si avvuglia. Va di lusso, va bene, di più, capito? Riesci a vedere? Un buon bove. Tanto mi sentono quando vado in banda laterale, non c'è problema. Se no mi compare Giungisi Catturetti che va a Marco e gliela abbino quando mi tornano l'altro alimentatore. Ah, ce l'ho io. E andiamo a fare una campagna pure di quelle scatolette lì. Lo lascio con 3 watt e poi attacco quello. Voglio vedere se mi intendi in chiuso. Sì, la buia. Ma io ce l'ho, non lo sto neanche usando qua. Io lo uso in macchina, quando sono proprio lontano, perché se lo metto a sasso arriva in saturazione perché è un bel forte. Quell'amplificatore lì l'ho misurato e va 90 watt. Quello che stavi usando in macchina non andava in saturazione, andava benissimo. Quando eri a San Pietro, non te l'ho dato io il controllo. Ma andava benissimo, sai perché cosa ho fatto io? Io con la radio che ho in macchina lo faccio uscire con 2 watt e mezzo, 3, capito? Se tu mi dai 5 watt d'ingresso, allora va in saturazione, non si comprende nulla. Tu lo lasci a 3 watt e va bene. Però io gli ho fatto un'altra modifica a quello. Io dietro lì c'è un trimmer che ho messo, capito? E posso aumentare e diminuire la potenza. Capito. Oh, Natalino. Oh. Franco anche. Sapete poi la furbata? Allora, questo alimentatore, il 203, prima era dato per 10, fino a 10 watt in AM. Però se ne davi 10 saturava, tipo da 7 in poi iniziava a saturare, no? Allora loro cosa hanno fatto? Hanno fatto le versioni successive uguali, poi perché lo schermo elettrico è uguale, i componenti sono uguali, e però gli hanno scritto di fabbrica ingresso massimo 5 watt, in modo che uno gliene dà massimo 5 e non satura. L'hanno fatto per far vedere che escono bene, perché in effetti era inutile darne ai 10 e uscire tutto saturo, capito? Hanno fatto la formata dicendo che era una versione nuova, in realtà non hanno toccato alcun componente, hanno solo modificato il manuale di istruzione dicendo massimo 5 in AM e massimo 10 o 12 in SSB, prima erano il doppio invece, capito? Te credo. Però Marco, se tu a quello non le dai, gli dai 4 watt o 3 watt e mezzo, esce ancora più forte, quindi ti sviluppa tutta la potenza dell'amplificatore. Ehi, adesso ti faccio un paragone. Allora, quello che ho io, senza misurato così all'uscita, senza il filtro, vabbè, quella è una cosa mia. Allora, con 4 watt ti dà 65 watt, veri però, Se lo metti, che ne so, 10 watt d'ingresso ne dà 100 pieni, 100 te li dà, o circa 100, però sono sporchi, sono saturi, capito? capito? Poi vabbè, io gli metto a casa un filtro per evitare eventuali TVI, e da 65 ne escono 50 tondi tondi, però puliti, privi di spuri e di armoniche, per evitare eventuali disturbi TVI. Ma stai parlando del 747? Quasi, sì, del 203. Se tu apri il 747, almeno nelle versioni più recenti, dentro c'è un RM 203, proprio c'è scritto RM Italy, non so se l'hai mai notato. No, vabbè, io non ce l'ho, io ho il vecchio modello, Natalino l'ha visto, io ho il B150 ZG, proprio vecchio, vecchio, vecchio, non so se lo conosci, quello che aveva la lettera di raffreddamento color oro. Sì, quello l'ho avuto, me l'avevano dato, ma nonostante abbiamo fatto la limitazione con quella resistenza ceramica, saturava lo stesso, bastavano pochi watt e saturava, alla fine ci ho buriato e l'ho regalato. Ma invece io ce l'ho in macchina e ti posso dire che ho abbassato i watt dell'apparecchio, che ci ho messo un trimmer, posso aumentare, l'ho pilotato con 3 watt e va benissimo, capito? Io l'altro giorno stavo usando la portatore, già sassari, e stava uscendo perfettamente. E stavo usando un antenino, ti sto dicendo, il mio batterio già l'ha vista che antenna c'ho io. Ma ti ricordi cosa ti ho detto, Fra? Quando tu avevi fatto quella prova, ti avevo dato il controllo, tu attaccavi e staccavi, però attaccato di saturo, c'è poco da fare, un po' saturo. Allora io l'ho preso, l'ho portato a casa e gli ho abbassato il watt, capito? Gli ho messo un trimmer, posso aumentare e diminuire. Adesso con l'apparecchio in macchina esce con 3 watt giusti, giusti, giusti, tondi, tondi, tondi, perché l'ho regolato proprio con lo furgone FMG, con il watt metterò ed è perfetto. Chiaramente se mi metto sotto casa tua adesso è chiaro che c'è saturo, però io da porta a porta già sta arrivato come 10. Eia. Ah ecco, l'hai modificato dopo, Ia. Sì, 747, basta dargli neanche 5, glieli puoi dare, e se pulito, forse anche 6, e con 6 già ti dà almeno 80 watt, cioè basta un watt in più e già aumenta molto. Va bene. Anche in macchina, per esempio, ti dà 2 Santiago in più, è tanta roba, in macchina è un aiuto enorme quello lì. Allora io, anche senza allineare, dalla macchina, da Trentino mi chiede a Natalino, da Coso, da mettere in giamma, da Ezzimano, che arriva a passare le 9:10 con quell'antenna piccolissima. Ma Smith era affidabile? Chiede a Natalino, io ero lì, ma lo controllo lui. E si vede che l'antenna è un'antenna piccolissima con la carica al centro, che non la faranno più neanche, non so neanche che marca sia, la verità. Sì, sì, guarda, io ne avevo una simile tantissimo, 30 anni fa e più, era marcata tipo Sirtel, che adesso non esiste più la Sirtel. Mi sa che la Sirtel, quella della carica centrale, che c'è la carica nello stilo proprio al centro, capito, con la molla, cioè, mi pare che sia 60 cm di lunghezza, 60 o 70, non fare del genere, e ti posso dire che va benissimo, perché io ho fatto la prova con la PCL 800, dal porto, e con quella variazione è poca roba. L'altro giorno, vabbè, Natalino non c'era, aveva chiuso, ero in campagna a Bancali, e ho chiesto un controllo, c'era Tonino, c'era doppio room, e Natalino aveva già chiuso, era per avere almeno 3 segnali, e vabbè, alla prossima qua, qua è Natalino. E allora, alla prossima volta vediamo un po' la situazione, adesso me ne vado a preparare qualcosa per mangiucchiare, là. Vi ascolto, riprendo dopo, là se ci siete. Ma non mangiare ancora che è presto, sono appena le 6, no? Sono le 7, manco un quarto, caro lei. E se non preparo mi tocca mangiare tardi, anzi mi devo misurare la glicemia perché sono tutto il giorno sotto controllo prima di mangiare. Sì, vabbè dai, già sono qua, se entri. Capito Marco, praticamente queste antenne corte, è inutile che c'è l'antenna che è lunga 2 metri, però quello che conta è la carica, capito? Quindi puoi mettere anche un'antenna di 60, dipende la carica, sempre la carica è quella che lavora. Beh, però la bobina in realtà non dovrebbe irradiare la parte lineare dell'antenna. Quella serve al raggiungimento della lunghezza elettrica dell'antenna, ma la bobina proprio, a meno che non sia spire larghe, quelle spire un po' distanti una dall'altra, allora sì, così come erano quelle antenne con la carica distribuita, non so se è presente, perché avevano una bobina elicoidale che però non era stretta, non si adatta, cioè ogni giro era attaccato uno all'altro, no, erano distanziati e quella era la carica distribuita, erano anche ottime come, ed erano fibra di vetro all'epoca, adesso vabbè, non si usano più. Allora, infatti questa c'è la carica proprio così, capito, rimane proprio al centro dello stilo, capito, e vabbè, poi c'è dell'altra frusta nera che è tutta caricata, ma quella ti spaccia il petto, c'è forte la antenna, però ti spacca la capota. Sì, ne avevo provata una, avevo fatto anche la prova comparativa, frusta nera da 95 centimetri, circa un metro, là, però non ci arriva, poi l'avevo data a Natalino, e poi un'altra antenna sempre da un metro, Sirio con la carica al centro, ed erano equivalenti, dai, non mi hanno dato grande differenza, anzi quasi nulla, per non dire nulla. Vedi, la Sirio ce l'ho appunto, ma l'ho rubata, la Sirio era una bella antenna lo stesso. Sì, qual era quella che c'era dello snodo? Sì, che poi sai cos'era quella? Quella era il radiale della Boomerang, quella Boomerang grande della LEM, era il radiale della Boomerang grande, nuovo, rimasto nuovo dopo tanti anni. E siccome non lo usavo, perché a me non piacciono quelle in fibra, non più, perché becchi un ramo e si spezza, invece in acciaio lo stilo si piega ad arco, poi torna dritto. Lo so, quella in fibra invece è una bella antenna, Marco, vedi? Era una bella, io addirittura ci avevo, non so se l'hai conosciuta tu, la Sigma, quella proprio in coso, ed era in coso, tutta in fibra di vetro, quella nera. Quella lunga, come si usava negli anni 80, sì, mi ricordo all'epoca ce l'aveva, e un bel gente ce l'aveva, ma erano grandi, tipo un metro e mezzo, 1,70, cioè 1,70 di fibra è enorme. Ah, tutta caricata da giù sino a su, sì sì, io ce l'avevo, non lo so più da che fine ha fatto, ma deve essere sul massata con l'antenna, da qualche parte. Certo che, oddio, io sai cos'è, ragiono sempre che ho la base, per le basi magnetiche, perché io quelle uso. Una volta ho usato sì un attacco che usavo a portiera, però se fa trazione troppo, insomma, magari piega pure la portiera. Queste inox, diciamo, sono sottili, poi tengono dei canali, cioè si fa 120 canali come niente, con una all'estremità tipo 1,3, 1,5 massimo, tipo 1,3 sul 40 sotto e 1,3 sull'80, ha voglia a lavorare, tutti i canali, tutti e 120 li puoi fare tranquillamente. Adesso, però io, vedi, io con la base magnetica non mi piace l'antenna, dimmi, io adesso devo tolgo quella che avevo dalla radio e l'ho messa sotto tettuccio, praticamente quella del baracchino l'ho messa a capotta, a posto di quella della radio, e va benissimo perché fa più massa e non sto sempre con questa magnetica tac e stacca. Ehi, sai cosa non mi piaceva di quella, dell'epoca di quelle, per quanto lo usavo poi, quelle in fibra, che non avevi, come si chiama, non erano cortocircuitate, almeno quelle che ho avuto io, non erano cortocircuitate né nell'antenna stessa né nella base sua, la base col galletto, magari in macchina non succedeva. Vabbè, invece quella di casa succedeva con la Grand Plain, la Grand Plain di alluminio, un quarto d'onda, no, certe scarica dal PL, tac, lo sentivo di notte, sto, tac, questa schicchera, come chiamo io, ho detto, ma cos'è sta roba, quando ero ragazzino, poi guardo, questa roba di scintilla, c'è cosa mi da tenere i due poli, uno con una mano, uno con l'altra. Ma infatti, io perché la voglio togliere questa qua, perché ci voglio mettere con la Game Master, adesso una volta che migliora il tempo, la sistemo bene e gli piazzo quella su. C'è un vecchio, qualcuno al bip vuole entrare, adesso lo facciamo venire avanti. Sì, la Game Master è poi bella perché è silenziosa, è molto più più silenziosa magari di quella in alluminio, e poi ti tiene roba di 400 canali con un ROS basso. Avanti il break. Io non sento a questo, Fra, io lo copio un po' a filo di QRM, guarda che tu sei più in alto, vedi se lo copi meglio. Avanti il break. Marco, non riesco a capirlo, me lo devo mettere le cuffie. Allora, mi pare di aver capito Vibo Valencia, dovrebbe essere dalla provincia di Vibo Valencia, però la modulazione è un po' soft, come dire. Andate la Mispati, Nord Sardegna, vai. Ma forse si è stufato, è chiuso. E la modulazione non era molto forte, è la verità, perché il segnale forse c'era, ancora c'era il segnale, ma la modulazione è un po' bassina. Poi io sono liscio, dove vado? Non arrivo dai Noghi alla Landriga. Qua mi stava arrivando Santiago 1-2, non di più. Poi non l'ho sentito, ripeto, perché era molto disturbato. Ho capito, Marco. No, qua 7, è arrivato 7, però il QRM è a 5, e infatti lo conto. Ma cioè tu non hai QRM nemmeno. Il QRM non è niente qua, nulla. Qua segna 5. E tutti gli apparati è bene o male. Porca miseria. Poi da quando c'è il ponteggio fra è peggio ancora. Sembra che si tiri il metallo, tutta la mondezza. Ho io QRM, non scendo qua. Nulla proprio. Zero. Beh, per te. Già, con le Game Master ancora meno le senti. Sarà calma piazza. Calma. Sì, ma infatti questa ne prende un po' di mondezza questa antenna. E vabbè, sono antenne così, Marcolino, non sono antenne un granché. Io di frustalare ne ho 1, 2, 3, 4 ne ho. Aspetta, Prova. Tu dicevi per l'SVR, ma non so se ti convenga tarartela appena abbassando l'elemento più basso di pochi centimetri o aspettare a mettere direttamente la Game Master, No, io salgo e ce la butto con l'antenna, direttamente alla mondezza, fa dal tetto al cassone. Perché c'è fra l'inizio l'entusiasmo, mi ricordo che dicevi che la Venom andava bene, cioè per il costo che ha va bene, però alla fine sai cosa, dura poco, cioè i materiali proprio risicati. Ti dirò che io ce l'ho qua la Venom da parte, ma sembra quasi che sia ancora più sottile e l'alluminio sia più scadente di quella della Energy che ho adesso. Sì, l'alluminio non serve a niente. Sarà un'antenna così leggerissima, ma non vale a niente, capito? Non serve, io non c'avevo la cosa, la Mako da 5 era tutto un altro pianeta da qua. Sì, l'altro giorno ti avevo raccontato che quell'antenna l'ha collaudata il profeta, gliel'avevo prestata per piazzarla sul tetto e non so, abbiamo fatto il confronto tra la Boomerang, che è un quarto d'onda, quella full size, no? Col silo da 2,75, e questa Venom mezz'onda. Beh, differenza zero, anche mettendo le righe al minimo, con lo Smith e la lancetta, non variava di mezzo millimetro, nulla, uguale. Come avere il quarto d'onda, ha detto, beh, tanto vale allora tenersi quella quarto d'onda, oppure mettere direttamente una 5 ottavi, però di qualità migliore. Ma infatti ce l'ho anche io la Boomerang in campagna, l'ho smontata, non la sto usando neanche. Poi ne ho una uguale alla tua, quella che ci hai piazzato tu. Via. E questa antenna qua, un bel di gente gli si è rotta. Entrava acqua o dava problemi o si interrompeva quella lamella che va, quella lamellina sottile che va dalla bobina allo stilo. E io qua, vabbè, l'abbiamo stagnata, ma di brutto mica un pomponio. Abbiamo usato roba di un rotolo e mezzo di vulcanizzante. Tutto quello che potevamo stagnare l'abbiamo stagnato. Per poco non l'abbiamo ricoperta dalla cima fino a giù. E quella che c'è io tutta vulcanizzata lo stesso. Perché se non succede che entra acqua ed è un casino. Ah, io doppio room, se è entrato sta già uscendo a scariche. Cosa? Sei uscito a scarica e appena entrato. Sì, probabilmente ho premuto male, dai. Ma ancora dubito, sì. Capo, buonasera. Buonasera, appena entrato Gianni. Mi ascolti bene in modulazione? Ando già da un po' perché mi spigliarla. La roba e mentre facevo le cose, facevo la luce, eccetera, eccetera, vi ho ascoltato. acciuppando stavi, di la verità. No. Con l'attalino avevamo detto, guarda Gianni, se non è in radio è preoccupante, vuol dire che sta acciuppando. Oggi hai fatto riposo, dai. Franco, vai. Ciao Gianni, buonasera, me l'ha ascoltato. Ciao Franco, buonasera. No, stavo pensando un po' a me stesso, dai, che ci penso poco. Mi stavo facendo la doccia, eccetera, eccetera, un po' gingillando. Sì, Gianni, la modulazione come mi copi? 1, 2, 3, 4, 5. È buona. Questo qua è Luis, non so se va bene. L'ho acceso perché lo devo far scaldare, dai. Lo devo far scaldare un po'. Niente. Tutto ok. Cappa. Natalino è andato a cucinare. L'ho sentito che l'ha preso, gli ho detto che non si aveva fatto insulina tutto il giorno, non aveva misurato la glicemia, eccetera, eccetera. Ma sì, già, senti di quello. Questo qui è quello, mi. Non lo puoi modificare. Non mi ha copiato. Cosa? A me stai dicendo? Ehi, ho detto questo è quell'apparato, mi. E il beeper non lo puoi modificare, lo puoi togliere ma non modificare. Ah. Ho capito, quello ti è arrivato? Ieri, ma avevo da fare, non potevo entrare in radio. Ma cosa c'è, portami? No. Marco, guarda adesso il segnale, guarda a te. Fra, non cambia, qua sei sempre incollato. Non cambia, siamo troppo vicini. Guarda, la seconda. Caga. Guardate in due. Andiamo. Bebo. Cosa c'è con 68? Così. Io lo sento modulare di sottofondo. Dovrebbe essere quel tipo di fuori da poco fa, ma a me mi arriva basso, io non ascolto. M del QRM. Ma se no è come prima una portante, a me arriva forte. La portante arriva forte, non so se sia qua, se sia la propagazione. La portante è fortissima. Adesso mi sto rilassando 5 minuti, sono goduto a dolori, adesso mi prendo un antidolorifico, mi ho fatto la luce, adesso è peggio. Ho questo tempo, è un casino, io non so più cosa mettermi, stamattina c'era caldo, avevo il freddo, ti metti il giubbotto leggero c'è il freddo, ti metti quello pesante c'è il caldo, non so più come vestirti, questo tempo non si capisce più niente, vai Marco. Sì, è vero, mi poco fa sono andato un attimino a spostare la macchina in camicia e camicia e avevo freddo, ieri avevo caldo, cioè, da un giorno all'altro o ti devi mettere la camottina, la maglietta o la giacca. E mai fatto in macchina io, cioè, il giubbotto pesante e il giubbotto leggero, perché intanto arrivato a questo punto non si capisce la ti devi mettere. Sì, è tutto strano il clima. Speriamo, è che hanno detto che sarà un'estate molto calda. Quest'estate ci crepo, vedrai. Io ho sentito che estate ne abbiamo poco quest'anno. Ma non sono stronzate che scrivo. Sì, ma ogni anno dicono la più calda di non so quanto degli ultimi cent'anni, lo dicono ogni anno però. Non vi credo che sia ogni anno più calda. Marco, guarda, io ti posso dire Marco che non capisco più niente di questo tempo. È quello che ti frega, perché passi dal caldo al freddo e ti vedi venire malato. Infatti oggi mi fa male anche il femore, a me pensa a tutto. Fa la testa? Il femore della gamba, te la parti di su. Eia. Carità, va, è tempo di merda questo. C'è una cosa da andare a pescare, non si può neanche andare a pescare, c'è mare brutto, lui sempre questo maestrale. E lui che chiudesse in un locale stanotte, io sicuramente vado esco, stanotte esco. Almeno ti svaghi un po', cioè, ce ne sono locali notturni, quindi. Ah, ma vado in una pizzeria dove fanno karaoke, capito? A me mi piace cantare, già lo sai. Faccio, mi canto qualche canzone e via. Abbatti il tempo, sì, Vai, Marco. Poi 5 o 6 me ne sono fatte stasera. Canzoni. E allora? Vabbè, col karaoke già ti diverti, dai. Ma tu lo colleghi al coso del computer, cosa fai con la musica del disco sotto e poi ci canti sopra, come funziona? La base c'è, no, c'è la base tu canti. Però io sono su un'app dove si fanno i contest, capito? Ci sono le gare proprio, si danno i primi, eccetera. Sono sempre virtuali, però sono premi virtuali, capito? La corona, ti scrivono star a fianco al nome, eccetera eccetera. Ho capito, una chat tipo contatto, una cosa del genere, che metti musica con la base soft, poi ho capito come funziona. No, non è una chat questa qua, questa è proprio un'app. Dove ho fatto canzoni, capito? Magari dovrebbe il primo anche canta meglio, una cosa del genere, mi volevo dire. Sì, sì, sì, è così. Fanno le gare e poi sabato fanno i contest, a volte anche in settimana. E ce n'erano anche sui 40 metri di contest, li ho sentiti poco fa. Stavo ascoltando con il ricevitore e c'erano dei contest. E beh, poi l'avevi contattato a quello. Cosa? Ho detto, l'avevi contattato quella cosa. Sì, sì, fra. L'ha mandato a riparare e me l'ho da aggiustato proprio. Ok, dai, meglio così. E il prezzo è sempre uguale? Il prezzo ha detto che lievita un po' perché devo pagare il pezzo. Il pezzo è la mano d'opera, e... capito? E vabbè, già, cosa te ne frega. Affusilline. Ascolta, è molto rumoroso il tuo. No, no, perché c'ho i filtri io, capito? Io c'ho il filtro qua, c'ho i due filtri. Questo c'ha già i filtri dentro. Ah, ho capito. Però diciamo che non, colpi non le prende. Va benissimo. Come mi ascolti, bene? Sì, la radio che te la sta avvicinando troppo alla bocca, forse. Il microfono è troppo alto, il macchinino. Guarda, il microfono ce l'ho a mezzo metro, no, mezzo metro, ma 60 centimetri dalla questa modulata. Che microfono sono particolari, devi parlare piano, lontano e regolare bene il macchinino, poi va bene. Ho capito. L'MC60 sto utilizzando adesso. Ehi. Il microfono è regolato sotto la I. Che è bello, sì, quel microfono. A me piace anche esteticamente l'MC60. È un bel microfono, già. Tu hai fatto bene. Allora, questa cosa mi stava dando un problema, che praticamente a volte usciva, a volte no, a volte si abbassava la radio, e quindi ho dovuto rifare tutto quel filo sottile che prende il microfono alla base. Era tutto cambiato. Ovvio. Ma del microfono questo? Cappa di positivo, dalla base dove c'è scritto MC60 esce il filo che poi porta direttamente al microfono, quello sottile. Io l'ho tutto cambiato, gli ho messo il filo più grosso, è uscito tutta un'altra cosa. Allora ci faceva più. Tutti e due li ho rifatti, Comunque gli spezzoni mi sa che li vengono anche già pronti, Ma non li comprare io, anche non serve a nulla. Me l'ho fatto io col filo serio, non l'ho preso da Fusaro quel filo grosso, bello. L'ho matto e non ci faccia più. Infatti. Fate un vato e non vi messi più fra. Fatto bene, Questa radio bene sta uscendo, questo qui è il Royce. Sì, sì, va benissimo, qua sei 9.40, radio Super 5, va bene. Sì, perché in definitiva questi fili sono troppo sottili. La nave del tempo cosa fa? Si interrompe o si spezza? Sì, come succedeva in quel microfono che era molto bello, però il Proxen. E li avevo tutti cambiati, mi sono pintato un giorno e li ho tutti quanti rifatti, li ho messi più grossi, i fili, perché erano duri i fili, erano duri, si spezzavano, erano piccoli, fili e duri. Duri, ma aspetta, lì. Il DM1000, sto venendo da ricevere che vanno i microfoni. Questi MC60 sono belli quei microfoni, però si sono cagati nei fili, capito? Perché hanno questi fili fini fini che si interrompono, non servono a niente. Non è strano, perché quel microfono lì tu non è che lo sposti, lo fai, sta fermo perché da tavolo, quindi non è che lo stai a spostare, a tirare, a fare. È strano, Vabbè, già. Adesso ho sistemato e va benissimo, mi sta ascoltando, c'è una bella radio, anzi pure troppo forte come radio. Appaga, no, già va bene. Adesso questo qua, questo Royce forse me lo vendo. Questo è un lavoraccio, mi sono comprato pure la lente, mi sono comprato quella lente grande, bella, con la luce, capito? Poi mi ho preso il salvatore d'aria, quello con la punta sottile, va bene, per fare questi lavori alla grande, capito? Poi c'ho anche gli occhiali con la lente, quelli grandi, se ti dà, mi metto qui, capito? E ci lavori benissimo. Marco, riprendi. Sì, mi cala un po' la palpebra, sto ascoltando con un volume moderato e piano piano mi sta bloccando. Se ti rubi la lascia e te la doccia notte non dormi. Se io mi colpo presto non dormo, alle 4 sono sveglio, capito? Quindi preferisco andare a letto verso le 11, 11 e mezza. Sì, no, me lo fa un po', poi io vado a letto anche tardi, non dormo a priori. Però a quest'ora, tipo le 7, anche le 8 di sera, viene questo, non so perché. Poi non so, è comodo il divano, se lo ti dica. Secondo me tu mangi, o fai merenda. La vecchiaia è quella, manco io quanto più. Anche tu la mi coppo e lui. È proprio vero, c'ha ragione Natalino. È la vecchiaia, Marco. Arrendiamoci, non c'è niente da fare. Invece sono i vaccini, che vengo messo sempre il flacco io. Non mi era mai successo, adesso sempre stanco, sempre stanco. Poi vabbè, mi attivo un po' e passo un po' la stanchezza, però poi che dopo che faccio una passeggiata col cane di nuovo mi viene voglia di sdraiarmi nel divano. Me ne penso tracco e adurori. Esatto, esatto, io lo stesso. Oh, voi non avete idea delle catombe di attori giovani che stanno morendo, attori americani, che magari voi non conoscete perché non sono della vostra generazione. Ma è una catombe, c'è, non ne parlano perché ovviamente non ne devono parlare. Hanno rovinato un po' di gente, stanchezza, le ossa, mal di muscoli, di tutto, non ti viene voglia di fare niente, cioè hanno rovinato un po' di gente questi vaccini, non bisognava farli quei vaccini, casino. Addirittura stavo leggendo che Johnson & Johnson, il coso e la Stravenga erano i più pericolosi. Johnson & Johnson e poi l'altro qual è? C'è Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, altri li conoscete? E Pfizer. Tu qual hai fatto, Marco? Sono loro più pericolosi dell'altro. Nessuno. E quei vaccini non erano neanche testati, ci volevano 2 anni per testarli e poi l'hanno fatti subito, come si spiega? No, quelli sono vaccini sperimentati e iniettati direttamente, ma cosa? Poi non dico io, provare sugli animali, no, invece li hanno provati sugli esseri umani, questi bastardi. Però con la collaborazione dei governi, perché c'è scandaloso che non ti vaccini, non vai a lavoro, capito? Certi ti sospendevano da lavoro e se continuavi ti licenziavano pure, capito? Ai medici non potevano parlare perché sennò li licenziavano, cioè roba mai vista. È dittatoriale, roba dittatoriale, siamo ritornati alla dittatura. Prove tecniche di dittatura, prove usi futuri, sempre. Per me si possono attaccare al Kaiser, meno male che non mi ha fatto nulla a me. Se non muoio in questi giorni, non si sa mai. Ma chi dice che Morelli giovane non è? Ma niente. È zitto! Scusa, ti picchio, Dammi il giornale con te. Natalia, anima mara, non i muri. Con la pompa, il cane si picchia con la pompa. Ma non ha capito che i vaccini fanno danno in seguito, non adesso. Sì, Natalia, medio e lungo termine. Lungo termine può dire anche fra anni, che adesso sviluppare tumori, per esempio. Tocchiamoci. Magari, dai. Marco! Allora. Andiamo bene, andiamo. Quanti hai fatto tu, Marco, vaccini? No, io no. Illustra, io, parlate di cose più allegre. Vabbè, quanti vaccini avete fatto voi? Manco uno. Natalia, tu? Ha giocato più quello anti-influenzale e sarò moribondo, evidentemente. Gianni, e tu due? Io tre ne ho fatto, il quarto non l'ho fatto. Io ne ho fatto due, Chi è che parla sul fondo? Hai di splatter quello che sento, è qua. No, è qua. Attenzione, amico, da dove stiamo modulando? Oh, c'è un medico RM oggi. Mi, cosa ti ha giudito? Franco non ne ha, beato lui. Io già non ero QRM. Santiago 1 era per QRM. Cosa vuoi dire? Sant'Ena che non si fa nulla, la pazzia. È davvero quella da lì. Certo, pure la recensione da limitato. Non si intende. Studiato. ditami se viene a pareva a me da precisa che c'è di Marco e mi stavano in stazionare a fondo scala. Perché è trovata la bobina. Oggi ti sto facendo ma questa antenna quando la smonto la vuoi o no? Cosa fra? Questa antenna quando la smonto ti serve, se no ce la butto. Già mi serve, lasciala. Ma la pulisca me la metto a parte. Va bene. Quanto ti stavo dicendo? Natale, da tu è un giocattolo contro la via. Come un giocattolo? Ui, non la la ricezione di questa antenna è come quella di un amanto, vai. Per quello anche che poi sto usando un coso, un baracchino che prende QRM, dai, è un Royce di quelli antichi. Però esce bene. La mia sento anche la propagazione, sento. Prima la gatta la parli sempre QRM a Santiago Zetti, con chissà invece chi va più l'antenna, quella che mi si metteva la bobina quando pioveva a Bagnomaria. Stazionare in fondo scala, non più di un modulare. E infatti sono qui di chissà che è un giocattolo, quella lì che c'avevi prima, no quella che c'è adesso, quella che c'avevi prima che si riempie di acqua e coso, non è un'antenna seria, dai. La mia sì, ha compiuto 9 anni, senza un minimo problema. Ma tu gli hai messo le mutande per quello. Tutto, mutande, reggiseno, di tutto, pure il cappotto gli ho messo, il cappotto di autoagglomerante. Sì, la mia era a culo nudo per quello, eccoci a perse. Adesso questa qua quando la piazzo, la riforzo prima di tutto, e poi la vulcanizzo da giù fino a su. Sapevate che c'era la gomma liquida, cioè la gomma spray, c'è un prodotto proprio spray e qualcuno l'ha usata per ricoprire veramente l'antenna da capopiedi, tutta, praticamente dura in eterno l'antenna. Ah, io ci metto tutto vulcanizzato, la riforzo prima tutta bene, poi ci metto tutto vulcanizzato da giù fino a su. Da voi non c'è da nessuno. Ma lui quando la devi rimontare fra un casino però. Ma il vulcanizzante è radiotrasparente, Natale, gomma però. Oh, io quante cazzate. Ma era una battuta, Natale. Penso proprio di sì. Ma la tira di tu che non esce. Esce da Mattesi. Li pensa sordo il baracchino, lì. Vuol dire che copriamo l'apparecchio, Natale. Li vuoi buoni lampi, fuori, al baracchino, si diventa soglio. Cosa ci vuole? L'antenna per impermeabilizzare, la vernice al piombo, allora sì, mi intendi di sciuro. Tranquilla reazione, Gianni. Come quello lì va bene per metterlo, per fare anche più. No, la riporto che sono le fasce della vulcanizzorimica, la metto, la rimesso tutta, bah, aggiungai. E poi io ho anche la matto da 5 in campagna. Aspure ne una, sarà frasica, però va. Guardate una per volta. C'ero anch'io in campagna, ho detto, la mantova 5. Però no, di cosa buona, la mantova 5. Gli viene un infarto ai vicini. Ma tu che dovrei piantare un traliccio da giù fino a su. Natale, metti il traliccio tipo quello che aveva quello di Viale Mameli. Come si chiama? Il principe. Mio circolatorio lì viene. Il traliccio come ce l'aveva quel radiatore di Viale Mameli scendendo. Come si chiamava? Vinci? Sì, un po' triste. Allora, già lì viene davvero l'infarto ai vicini. E allora, lui viene grave, notevole deperimento organico con infarto cardiocircolatorio. E poi già che ci sei, se il traliccio ci metti una quadripu cubica, no? Con più elementi anche. E beh, mi sembra ovvio. Una volta che c'è il traliccio, ho tutto nuda. Di lampione che bisogna opinare direttamente. Allora sai cosa ha detto il giorno? Se quelli che stanno facendo i polimeri, che sono leggerissimi. No, plastica no. E lui dice no, non è plastica, sono polimeri. Sempre per plastica. No, io ho anche la pistola in polimeri, non è vero. È resistente. Ma una cosa è la pistola, una cosa è un tubo lungo che flette, come la Game Master, dicevano che era eterna e si spezza anche quella. No, mettono i lampioni, li mettono con quei tubi, guardate che sono di ferro, sono in polimeri. Buoni come i tubi, non si spezzano. No, non si spezzano e non flettono quelli lì, anche sono grossi. Ma speriamo che non sia come le antenne, che dicevano che il MAS è indistruttibile, la Solar con in fibra di vetro è indistruttibile, quell'altra è indistruttibile, tutte troncate poi. La mia è indistruttibile, perché fino adesso è andata troppo bene quella antenna e non si è spezzata. L'ho vista in orizzontale addirittura dal vento. Gianni, ripeti che è passato Natalino. Ah, no, mi bulla di Natalino, va a tacco. Oh, ho detto, fra, che conviene mettere un altro tubo sull'altra antenna e poi magari mettere un po' di pulizia nel spazio, così non si muove più. Sì, ce la faccio, quando è piantata tagliamo in fascia. Ce l'ho già il metodo come fare io. Faccio vedere che quando è piazzata vedi come esce quell'antenna. Sì, ma grande che ti... Marco, ma mi senti? Quando fa tempo buono, non mi vedo sempre più bene, è un casino. Casino sì. Sì. Te con il senso, no? Già, chi sta di sotto, gli avevo detto, guarda, ma dice adesso non ci salga perché è bagnato. No, gli ho detto, quando fa belle giornate, c'ho la chiave, già, salgo e la butto giù quella lì. Quindi quando la smonti non la rovinare. Ah, nella tiventiera, per la rovini. A parte devo cambiare anche il filo, devo cambiare, perché quello che c'è non sorgo. Beh, una volta che piassi con la linea lo fai bene il lavoro, no? Basta, lo basso. Sì, Natalino sta provocando, Gianni. Dove vatti? Passa, va, avanza, passa, va, io, vediamo un po' se passi adesso, là, che sei piccolino nei confronti. Passa anche Natalino. Però Natalino ha 2 watt adesso. Ah, sono io. Ti schiaccio. Però basso. No, adesso la spunta Gianni, sono pur sempre un bel watt. Vabbè, allora vuol dire già mi compro quella scatoletta, così lo passo anche con quella. Ammazzo, lo schiaccio quello lì. Ti ho schiacciato. E con 230 watt, sì, che la vai. Vabbè, tu sei a fianco a Marco, io non grido. Sì, proprio a fianco no. A fianco potrei avere Carlo, ma Natalino è molto, molto più lontano. Sì, ma confronto a me rimane più vicino. Sì, aumento io, mi. Fate da bravi. Invece chi sono vicini sono... credo la portata sia ottica, con antenne che si vedono, è tra Franco e Gianni, infatti. E loro sono vicini, sì. Qui siamo a 2 schiaffi e 60. Napoli, Gianni arrivano 2,60, no? Quando attaccato 2,60. Oh, fra, stanno chiamando dalla Spagna. Non gli rispondete che loro fanno gli ignuri quando li chiamiamo noi. No, dopo se vanno lì, non potremmo fare la verità. Che rispettoso Natalino. Natalino, vitti socialmente, Chi è avanti? Attento il collega che chiama l'Italia, avanti. Propagazione di capo, ecco, propagazione corta, stava chiamando l'Italia. Magari Giamatu, no, non gli rispondete, se no cazzo poi non parliamo noi. Io ho già messo lo squelch, così non c'è pericolo. Io altrettanto, cosa ha giù di sorbirmi, buva Eddie, quando è questo locale, no? Davvero? Ma sta salendo la propagazione. Ma grazie. Forse italiani almeno. L'altro giorno c'era tutta l'Italia. Io ho parlato con Cotto, con Campobasso, col Molise, che è difficilissimo. Eppure sono arrivato, tranquillo. Invece prima è entrato Ribo Valencia, poi al fine non lo copiavamo, troppo basso di radio era. Ma questo arrivava forte. Anche? Avevo un 7.600, ero grillo. Ma questo è italiano però. C'è uno oscillante, tipo Santiago 6-7, dice la propagazione è molto oscillante, vai e viene, non so che cosa. Attenzione collega, se ascolti la Sardegna, cambio. Sta parlando. Attenzione collega, se ascolti la Sardegna, cambio. E c'è Andrea Ghiscio. Andrea sta chiamando, capito, dalla Spagna. Andrea è un nome strano. Io ho conosciuto donne che si chiamavano Andrea, lo sai. Pure io. E così dicono, buonasera. Ehi, ciao T, però quella che ho conosciuto io era più brutta e tanto voleva un maschio a quei livelli. Anche quella che ho conosciuto io era bassa e fai i droni. Avanti Tino, buonasera. Buonasera, buonasera. Tutti così dicono, conosciuta io, bella, si chiama Andrea, invece no, ho visto, si è andata male. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, era meglio niente, dai, questa che ho conosciuto, meglio niente, ma me l'avevano presentata e la gente che c'era in greffa con me che me l'aveva presentata e via. Niente, era simpatica, non mi simpatica. Ciao Marco, io c'ho anche Franco, se non sbaglio. Ciao Tino, buonasera, non so se mi ascolti, a me sto uscendo con la penna di gomma. Sì, se 9:10, Radio Super 5, ho voglia. Figlia. No, sei tornato l'MC perché c'avevo problemi sul cavo del microfono, capito? Va bene, ho voglia. Marco Righi. Cappatino, c'è Natalino anche. Fatemelo dire, ma il 12 è in disuso, perché certe sere magari accendo, faccio spazzolata e non sento più nessuno, nemmeno lì, e spengo direttamente. No, non è in disuso. Ciao Natale. No, è che molte volte, per dire, Gavino deve andare a lavorare presto, quindi non ci passiamo lì, dai. Vabbè, problemi di lavoro e tutto, in effetti gli orari sono delicati, a quell'ora lì è un casino, solo se l'alzare presto è drammatico. Natalino, riprendi. Sì, riprendo e vi saluto tutti che me ne sto andando, ci sentiamo alle prossime, dai. Riprendete il questo tranquillamente, io me ne passo in QRT. Ciao a tutti. Che bello stai, Natalino. Eia. Allora dai, buon correttivo a tutte, ce la riascolta alle prossime. Vai Tino. Andare, ciao Natali, ciao, alle prossime, fammi bene. Vai già. E io, ciao Natali, ciao, buona carica, dai, quando la fai. Avanti a chi sto. Marco, riprenditela. Io sento sempre questo che parla di fondo, ma deve essere un questo locale tipo il nostro. Va bene, io mi ero dimenticato di bermi il caffè, praticamente è un caffè freddo adesso, però è buono lo stesso, dai, ne approfitto. Tino, riprendi tu. abbiamo avuto la stessa idea, solo che io ho acceso la macchinetta e credimi, me ne sono completamente dimenticato di andare a farlo. Ho messo già la cella d'autoconto, stavo aspettando che magari scaldassi un pochino la macchinetta, ma mi è passato anche di mente. Grazie per avermelo ricordato, adesso vado e me lo ciuccio tutto. Vai fra, sto arrivando, ecco. Questa la riprendo io. Sì, già io vi sento, però 2-3 arrivano qua, capito? E io. E vabbè, propagazione un po' falsa, dai, non è di quella buona. Aspetta che cambia apparecchio là. Gappa. Che buono che è. E bello il caffè. Eia, l'avevo fatto quant'è? Un'oretta fa. Sono qua nel bicchiere. È buono, ti dirò che in estate lo beviamo. Quando io dico freddo intendo ambiente, però c'è volte anche freddo dal frigo. L'ha messo in bottiglietta, no? E ci aggiungo giusto lo zucchero e me lo bevo freddo dal frigo. E anche io. Poco fa l'ho bevuto freddo. Anche abbiamo lo stesso, c'è problema. Per esempio in estate io ogni tanto prendevo il caffè shakerato al bar, però alla faccia dello shakerato ti partono 2,5 euro ormai. Infatti al bar non sono più entrato, aspetta che abbasso un po' di potenza, che se no... Ok, dai. Sì, comunque bella modulazione, bella, molto molto calda. Poi qua l'altoparlante, c'è il baracchino, c'è un altoparlante standard, no? Del 2009 praticamente. Non è quell'altro baracchinetto presidente, c'è un altoparlante, sembra vinto nel nuovo Kinder. Ah vabbè, questo già va bene come apparecchio. Diciamo che va alla grande. E così, anche il sabato se ne è quasi andato, la serata del sabato, dai. Purtroppo il tempo era brutto, domani vediamo, facciamo guardare le previsioni, quelle locali. meteo.it, non mi ricordo, adesso guarda. Sono ritornato, Mami, forse, ciao, domani forse più che non è ammesso, dunque non lo so, io non ne capisco più niente di questo tempo. Ci dobbiamo adattare adesso al tempo, perché l'inquinamento che c'è nell'aria, quelle strisce chimiche che fanno gli aerei, cazzo, stanno inquinando tutto. No, domani a quanto pare non è ammesso l'acqua, ma io di queste previsioni, sinceramente parlando, non riesco più a capirle, perché a volte ti dicono che è una giornata molto piovosa, invece è nuvoloso e basta. Però loro si mettono già sugli attenti, nel senso che danno precipitazioni sparse dappertutto. Qua mi dice, per esempio, primo mattino pioggia, anche temporali, tipo alle 7:08 c'è il fulmine disegnato, poi dalle 10:11 tutto sole, tutto libero, se si azzecca, no? Sud Italia ti ascoltiamo, ma male, buonasera, se mi ascolti. Sì, vabbè,